Radio Toronto News. Radio Toronto News. Abbiamo con noi Mauro Randone del WWF Mediterraneo, che è uno degli 8 tester insieme che stanno valutando in qualche modo il pacchetto che è generato dal progetto DestiMed in corso nell'area marina protetta, o meglio sarebbe dire sull'intero territorio dell'area marina protetta. È un pacchetto costruito appunto su più livelli, e a lui chiediamo un pochettino qual è un po' il suo ruolo in questo progetto e naturalmente il ruolo dei suoi colleghi. Allora, innanzitutto grazie mille per questa opportunità. Noi siamo di presentare anche il progetto. Io sono un partner, il WWF Mediterraneo è partner del progetto. Siamo qua come, diciamo, ci siamo aggiunti al gruppo di tester per valutare il pacchetto. Allora, innanzitutto il ruolo appunto è quello di dare un'opinione sullo stato attuale del pacchetto che ha costruito e di capire dal punto di vista appunto specialmente sostenibilità e dal punto di vista della vendibilità anche del pacchetto all'estero come poterlo migliorare da qui alla prossima fase di test che si terrà a maggio-giugno dell'anno prossimo. E a lui appunto come esperto chiediamo un pochettino quali sono state i punti di forza e i punti di debolezza rilevati nel corso di questi 4 giorni di visita qui sul territorio. Allora, sicuramente dal punto di vista naturalistico, appunto un gigantesco potenziale della costa e anche abbiamo visto dell'interno, il parco dei Calanchi, eccetera. E, per cui un grosso valore aggiunto da quel punto di vista. E poi anche dal punto di vista appunto storico-culturale, insomma una zona molto ricca, per cui c'è un'offerta veramente, veramente importante. Dal punto di vista negativo ovviamente c'è un forte, quello che si chiama l'impatto antropico, per cui la presenza dell'uomo è una forte urbanizzazione a livello di costa, che insomma la conosciamo tutti, però allo stesso tempo può essere vista anche come una sfida dal punto di vista conservazionistico per mantenere diciamo vivo un territorio che comunque rispetto a molte altre destinazioni dell'Adriatico ha mantenuto le grandi aree verdi, la splendida di la pineta che corre lungo la costa, insomma è veramente un territorio unico. Per Radio Cerrano ringraziamo il nostro ospite, l'appuntamento è per i prossimi servizi. Radio Toronto News. Radio Toronto News.